prima delle 6 tutto pronto. Mi dice che non dormono. Buongiorno, Giuseppe. Buongiorno. Ti presento Natale, mio fratello. Piacere. Natale, il famoso Natale, il giustiziere. E bravo Natale! Ti ricordo, te ne avevo parlato per quel lavoro. Sì, mi ricordo, come non mi ricordo. Appena esce poi Tamilo mi dice, ed eccolo qua. E bravo Natale! Quando riuscisti? Aveva una settimana. Bravo Natale! E ti sei divertito? Ti sei rilassato in questa settimana? Dimmi una cosa Natale, se per caso non c'è travaglio e non ti faccio travagliare, che ammazza pure a mia? Ma che minchia dice, lo scherzo? Io non scherzo, perché lavoro non ce n'è e non ce ne posso dare. Ma tu mi avevi detto che c'è? C'era, una volta, ora non c'è più. Spesso sei un problema quando pensi troppo con la tua testa. Purtroppo qua qualcuno con te sei questi qua. Guarda qua, panna qua da tutte le parti. Mille sorrisi qua se ti hanno già messo fra gli scarti. E manco vengono a parlarti, chiamano l'intermediario. A lui che tocca licenziarti, tanto che problema c'è. Il discorso è due minuti, ci dispiace, meriti di meglio e tanti saluti. Io non sono come loro, loro valgono oro. Io sono solo un pezzente, il primo a perdere il lavoro per loro. Se solo due braccia te ne sei accorto, matricola 300, ora soltanto un altro voto. Se mi voto ci sto male, meglio guardare avanti. Ma avanti nulla da sperare se sei senza contanti. Da solo contanti non fa la differenza. Sono forte, adotterò sta virtù, la pazienza. Smetti di studiare e vieni a lavorare. Ti aspetta se va bene un bel posto da interinale. Lì puoi diventare da carpentiere a caporale, da elettricista a meccanico e poi ancora cercare. Smetti di studiare e vieni a lavorare. Ti aspetta una vita da interinale. Loro possono decidere come devi campare, a meno che non fai parte dell'alta classe sociale. Per quello che sento dire non va un cazzo bene. Politici del cazzo, fate le persone serie. Siamo stanchi di subire col lavoro interinale. Anche noi qualche sogno lo vogliamo realizzare. Tu vuoi mangiare tutto solo fino a scoppiare. Poi va a guardare nei miei cazzi per potermi derubare. Tu solo prendi stipendi da milionario. Ti permetti di far pure conti lordi al mio salario. Salario di un lavoro che purtroppo è sempre nuovo. 30 giorni di contratto e 90 senza rinnovo. E mi ritrovo di nuovo a fare il punto, andare a capo. Stringo la mano al nuovo capo e nella punta abbasso il capo. Se lo vedo con il Porsche e il cappotto firmato, implica posizione a tempo determinato. 2008 ancora nulla è cambiato, tutto è passato, c'è un futuro, non l'ho ancora realizzato. Smetti di studiare e vieni a lavorare. Ti aspetta se va bene un bel posto da interinale. Lì puoi diventare da carpentiere a caporale, da elettricista a meccanico e poi ancora cercare. Smetti di studiare e vieni a lavorare. Ti aspetta una vita da interinale. Loro possono decidere come devi campare, a meno che non fai parte dell'alta classe sociale. Grazie Astra per avermi aperto gli occhi. Mi accorto sfruttato, poi rigettato in mezzo ai blocchi. Grazie anche a te politico, tu sì che pensi. Giochi con la mia vita e mi fai schifo in tutti i sensi. Ti vedo e non è un bel vedere. Sento il tuo odore, puzzi di carabiniere. Ascolto i tuoi discorsi, ascolto ciò che pensi. Io ti assicuro che è il peggiore tra i cinque sensi. Ti tocco per dissensi e sai di niente, lo sai. Prima o poi ti avrò fra i denti e ti dirò che gusto hai. Tu mi porterai all'esasperazione. Tu mi porterai a fare cazzate per i moni. E poi ti lamenti per la delinquenza in Italia. Anche tu hai contribuito col contratto che si taglia ogni volta. Butti all'aria i miei progetti ogni volta. Dai, confermi i miei concetti. Smetti di studiare e vieni a lavorare. Ti aspetta se va bene un bel posto da interinale. Lì puoi diventare da carpentiere a caporale, da elettricista a meccanico e poi ancora cercare. Smetti di studiare e vieni a lavorare. Ti aspetta una vita da interinale. Loro possono decidere come devi campare, a meno che non fai parte dell'alta classe sociale. Smetti di studiare e vieni a lavorare. Ti aspetta se va bene un bel posto da interinale. Lì puoi diventare da carpentiere a caporale, da elettricista a meccanico e poi ancora cercare. Smetti di studiare e vieni a lavorare. Ti aspetta una vita da interinale. Loro possono decidere come devi campare, a meno che non fai parte dell'alta classe sociale. Assai ne sai. Tanto faccio lavoro, ma lo c'ho. A Palermo lo sanno tutti che il lavoro è troppo assai. E giù, X-Faga, Pomas. E bravo Natale!